Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Eccoci qui, tutti riuniti in questo venerdì, in questa settimana strana con un mercoledì di mezzo e quindi l'ultimo giorno di lavoro. Veronica Gentile è già contenta, pensa a dormire tutto il weekend. Se non fosse stato da Leoni il mercoledì, c'è tempo per recuperare il venerdì. Ah, ecco, che massima è? Ricordo niente, è buttata così, è l'entusiasmo che parla dentro di me. Ah, vedo già il mio letto e ho pena per lui, lo distruggo, capito? Capito. Va bene, dai, i funamboli, siamo tornati. E voi potete chiamarci, scriverci come volete, 800 24 00 24. Altrimenti gli sms, whatsapp al 349 238 6666. Ma abbiamo anche la mail funamboli@radio24.it. Siamo in diretta Facebook sui nostri canali Radio 24 e anche sui funamboli. E che dire, ci siamo. Che c'hai? Ti sei raffreddato? No, assolutamente no. Sembravi un po' raffreddatino. Non vorrei passassi il weekend tutto incimurrito, sarebbe sgradevole. Ragazzi, me la stai tirando tantissimo. Me la stai tirando. Su, che ti proteggo. Santa Veronica ti guarda dall'alto. Allora, oggi abbiamo tanti temi da affrontare, tanti funamboli che si succedono. Alle 9:09. Ah, tra l'altro, io vorrei chiamare anche le vostre sigle audio al 349 238 6666, cioè via WhatsApp. C'è anche Leonardo Manera là che si aggira nella regia e tra poco sarà con noi. Effettivamente ci chiedono incimurrito tecnicamente, cara Veronica, ci puoi dare una spiegazione di questa parola, di questo neologismo? Dire, lievemente, ma quale neologismo? Dai. Vorrebbe dire congestionato, ecco, mi sembra la parola, il sinonimo più idoneo. Mi piaceva altrimenti di più incimurrito. Beh, incimurrito ha anche un che di gattesco, no? Non ti senti subito un micio? Ecco, più o meno così. Dai, partiamo, vogliamo parlare subito di abusivismo in Sicilia, perché è un tema che abbiamo già affrontato in passato e da qui vogliamo partire con il nostro primo ospite. Sai, Veronica, che c'è un'espressione nel ciclismo, quando si dice un uomo solo al comando, quando c'è magari uno in fuga su quelle tappe di montagna dolomitiche, quelle belle, in cui uno stacca tutti e la folla lo incita e dice dai, sì, dai, ecco. Sì. Quell'espressione, un uomo solo al comando, non so perché, sì, ma pensando all'ingegner Vincenzo Ortega, io ho un po' questa immagine mi è venuta. L'ingegner Vincenzo Ortega, che è con noi e lo salutiamo, buongiorno. Buongiorno. Del Dipartimento Urbanistica del Comune di Licata. Esatto. Ha già firmato, è vero il numero 111, o ce le aggiorni se è vero, ordini di demolizioni di case abusive. Sì, anche di più in realtà. Diciamo che ne sono già stati eseguiti 111, di demolizioni 111. In realtà i provvedimenti che ho emesso sono molto, molto di più. Sono intorno ai 400, diciamo, ad oggi. 400 provvedimenti, ovviamente su ordine della procura, no? Alcuni su ordine della procura, perché sono conseguenza di sentenze passate in giudicato, altre sono ordini amministrativi di demolizione, cioè conseguenti a procedimenti solo di tipo amministrativo. Ma lei lo fa perché è il suo mestiere, giustamente, quindi lei dice non è un atto eroico in cui io vado a sovvertire le regole costituite, io faccio quello che mi è richiesto di fare. Assolutamente sì, c'è una norma ben precisa che prevede questi adempimenti obbligatori per coloro i quali sono deputati a farli, ad emetterli, a fare osservare queste leggi. C'è un testo unico delle leggi edilizie, ci sono delle norme che prevedono che nel caso in cui venga realizzato un immobile in assenza di titolo debbano emettersi provvedimenti sanzionatori conseguenti. Però lei lo racconta giustamente così, ma credo che la sua vita, che poi è alicata, non sia una vita estremamente serena per il tipo di lavoro che fa. Purtroppo purtroppo no, ed è questo che cerco di farmene una ragione, ma obiettivamente mi viene un po' difficile. Questa questione sta assumendo caratteri ed evidenze tali che stanno esponendomi in una maniera particolare, che non comprendo per quale ragione debba esserci questo aspetto che si è conclamato in questa maniera nel mio territorio e che analogamente invece non riguarda anche gli altri territori. Ma lei ha già avuto delle ritorsioni vere e proprie importanti? Sì, io ho avuto bruciata l'auto, l'auto mia, di famiglia, ho avuto minacce, no, proiettili, lettere minatorie, problematiche varie che hanno spinto le autorità ad attuare un protocollo di protezione. Quindi è sotto scorta? Sì, insomma, è sotto scorta. No, ma non so se, cari ascoltatori, vi rendete conto, cioè un funzionario del comune di Licata che firma, perché è il suo mestiere, il suo lavoro, è il suo dovere firmare, fare un atto esecutivo, che poi non è che le firma perché lui decide quello che è da abbattere, la procura decide quello che è da abbattere, oppure è abusivo e da abbattere, e quindi ci vuole la firma del funzionario che viene... passa per essere il cattivo del comune, no? Invece... Esatto, è così, perché poi è chiaro che questi aspetti in una comunità fatta di migliaia di persone che in ogni caso è interessata in maniera diretta o riflessa da questioni che in maniera così generalizzata riguardano un po' tutto il territorio, diventa un bersaglio da tutti i punti di vista. E che quindi crea qualche difficoltà personale. Ma qual è l'atteggiamento che la circonda? Voglio dire, cioè, c'è un'inerzia collettiva che chiaramente la mette maggiormente a rischio, perché se nessun altro fa niente, lei resta solo. Ma c'è questo aspetto, questa ostilità che aleggia un po' in generale, a parte le istituzioni che per carità mi sono state assolutamente vicino, che adottano tutte le cautele necessarie per proteggermi e consentirmi di portare avanti queste attività. Però sostanzialmente si registra questa ostilità diffusa da parte di tante persone che, subendo gli effetti di questi provvedimenti, certo, insomma, non gradiscono che probabilmente si vada avanti in questa direzione. Senta, ingegnere Ortega, sì, la questione è, ovviamente lei non è un politico, per carità, però non può, è un cittadino, non può far finta di nulla del fatto che si voti domenica. Il tema dell'abusivismo ci può far capire come è entrato in questa campagna elettorale, visto dal suo punto di vista? Cioè, siamo ancora in un paese in cui l'abusivismo è una materia di scambio per ottenere voti? La tolleranza su questo tema, la storia su questo tema ci ha insegnato tanto. È evidente che in passato questi aspetti hanno caratterizzato le campagne elettorali e il mondo politico. È evidente anche che questa questione adesso incide profondamente su molti aspetti di tipo politico, benché io non abbia registrato obiettivamente al momento nessuna presa di posizione né nell'uno né nell'altro verso, cioè né nel senso di immaginare possibili soluzioni né nel senso di indicare da parte sempre della politica che così è e così va fatto. Anzi, ci sono state posizioni abbastanza ambivalenti, candidati che dapprima dicevano forse l'abusivismo di necessità bisogna concepirlo, poi hanno ritrattato. Ripeto, è un aspetto che è spinoso, che trattarlo probabilmente imbarazza e crea problemi a tutti, ma insomma, dovrà pure esserci un momento in cui la politica, che è deputata a cogliere e a percepire gli aspetti di una collettività e per un fenomeno così diffuso, debba comunque assumere una posizione che non metta... Ingegnere Ortega, no, a me fa molto piacere iniziare la trasmissione con lei, perché sa, poi con i dipendenti pubblici, spesso anche nei confronti dei dipendenti pubblici ci sono critiche, dei funzionari pubblici, dei cosiddetti burocrati. Lei è quello che si definirebbe un burocrate, e invece voglio dire... un'eccezione che va... Si ritrova in trincea per questo, no? Ma non va bene, non può essere così, perché poi questo finisce per esporre chi fa il proprio dovere e che... alla fine rischia di essere additato come colui il quale è andato oltre quello che gli aspettava fare, quando in realtà probabilmente al contrario. Magari. Ma infatti io volevo farle una considerazione provocatoria. Lei dice di non essere un eroe, di essere uno che fa il suo mestiere, però poi rischia di ribaltarsi il punto di vista, perché nel momento in cui lei diventa un caso isolato, incorrendo in rischi fisici come quelli che ha avuto, rischia di diventarlo davvero un eroe, perché sarebbe stato più semplice decidere di fare come fanno quasi tutti gli altri e lavarsene le mani. Lei ha colto perfettamente il senso un po' del mio rammarico e della mia preoccupazione. Se questi procedimenti fossero stati portati avanti in maniera diffusa e generalizzata, come dovrebbe essere, da parte di tutti i comuni, di tutti i sindaci, di tutte le realtà che sono gravate da questo fenomeno, sicuramente l'aspetto della concentrazione delle attenzioni e dei rischi su un'unica persona o su poche persone che riguardano il comune di Licata, come è stato anche per il sindaco, probabilmente non ci sarebbe stato. Mm-hmm. E questo è l'aspetto che mi preoccupa di più. Eh sì, questo senso di isolamento. Perché? Infatti lei l'ha anche certificato dicendo: ma io a mia moglie e mio figlio, che mi chiedono come mai sono l'unico a fare quello che è il dovere che dovrebbero fare in tutti i comuni, che rispondo? E che rispondo? Me lo chiedono spesso. Dice: ma scusa, perché questo problema altrove giustamente non c'è? Perché le altre ordinanze non vengono osservate? Perché gli altri comuni non fanno pure le demolizioni? Se con un programma coordinato fra tutte le forze, fra tutte le entità coinvolte in questa vicenda, fosse stata coordinata un'attività a livello regionale per dire: adesso andremo avanti e si demoliranno le costruzioni nella fascia di 150 metri di inedificabilità, sì, nelle zone. Lei si sentirebbe meno solo, si sentirebbe questo meno problema, solo. Esatto, invece alla fine sta succedendo che questo aspetto si lo sta sviluppando soltanto Licata, con me che sono il dirigente del Dipartimento Urbanistica, con il sindaco pro tempore che anche lui ha avuto. Mi scusi, ma le volevo chiedere questo: prima del sindaco pro tempore però c'era un sindaco, Angelo Cambiano, che è sì, sbalzato agli onori, lo sappiamo, perché in qualche modo era il sindaco antiabusivismo, l'abbiamo anche ospitato. In quel caso lei per esempio non ha avuto un sostegno, delle facilitazioni, non avete trovato un canale preferenziale per collaborare? No, il sindaco Cambiano è quello che è stato sfiduciato. Adesso c'è un commissario straordinario. Sì, certo, dicevo, ma in quella fase, finché c'era il sindaco, per esempio, lei è riuscito a lavorare un pochino meglio? Ma guardi, i problemi e l'amministrazione con la quale si sono portati avanti queste procedure è proprio quella del sindaco Cambiano, con il quale abbiamo lavorato perché si attuassero gli ordini della procura e si portassero avanti le ordinanze di demolizione. Quindi lei è rimasto solo senza il sindaco, sostanzialmente. Il sindaco è stato sfiduciato, non c'è più. Ho capito. Adesso c'è un commissario straordinario che, per carità, sta assolutamente seguendo la stessa linea di rigore e di attuazione delle ordinanze di demolizione, ma hanno minacciato anche lei, ha ricevuto delle note con minacce di morte. Sì, è stata no, ma è chiaro, è stata ospite. No, è stata ospite di Simone Spezia. Diciamo che la vicenda di Licata è una vicenda che abbiamo sviscerato in vari modi, sia col sindaco di prima, il sindaco pro tempore, il commissario prefettizio e adesso l'ingegnere Ortega. Ingegnere, noi la ringraziamo perché insomma è facile da parte nostra, come sempre diciamo Veronica, da qui, da uno studio, dire vada avanti, che diamo il nostro sostegno, possiamo darle voce, quello che possiamo fare possiamo darle voce, poi chiaramente è lui che è lì che lo deve fare. Sai Alessandro, l'ultima cosa su questo vero funambolo che mi ha molto colpito era il dubbio che lui esprimeva alla fine di una sua intervista, dicendo che magari poi sarà la storia gli darà anche torto, perché se resterà il solo a fare tutto questo, alla fine verrà anche fuori che era lui che andava controcorrente e faceva male. Comunque, e lo ringraziamo molto l'ingegner Vincenzo Ortega, Dipartimento Urbanistico di Licata, che ha già firmato oltre 400 demolizioni di case abusive e si ritrova di fatto sotto scorta, minacciato. E a proposito di sotto scorta minacciato, la nostra prossima funambola ci vuol raccontare qualcosa, perché tutti sono concentrati sulle elezioni della Sicilia, per carità, molto molto importante, ma si vota anche a Ostia domenica, comune commissariato. Veronica, la vicenda la sapete, insomma, anche Mafia Capitale, Suburra, no. La fiction, il film. Tra l'altro c'è da dire che è un'elezione di un'importanza clamorosa, per quanto non si pensi, perché fa parte di Roma, uno dice vabbè, è un municipio. No, non è un municipio, è gigante Ostia, cioè più grande di Parma, di Livorno. c'è una quantità enorme di abitanti, sono 250.000 abitanti, quindi è una realtà enorme ed è anche un campione di quello che accade in Italia. Poi, al di là delle elezioni, poi vedremo come andranno, noi vogliamo salutare Federica Angeli, una collega di Repubblica. Buongiorno Federica, grazie. Ciao, buongiorno, ciao ragazzi. Perché Federica Angeli è con i suoi articoli, con le sue denunce, con quello che tante volte i giornalisti fanno e poi pagano sulla propria pelle, in che condizioni di vita sei in questo momento? Ma sono 1567 giorni che vivo sotto scorta. E quindi non posso mettere il naso fuori di casa senza i miei carabinieri. Io poi ho scelto di rimanere ad Ostia, per cui non posso affacciarmi dal balcone di casa mia, perché è da lì che ho assistito a un tentato duplice omicidio di cui sono unica testimone oculare, che insieme a quello che mi era accaduto durante l'inchiesta un mese prima, ovvero un sequestro dentro uno stabilimento balneare, minaccia di morte dal boss del clan di Ostia, il combinato disposto di queste due cose ha fatto sì che da quel giorno, dal luglio 2013, io vivessi così sotto scorta. Accidenti. Ma la tua esperienza, Federica, ci racconta già moltissimo del clima che c'è a Ostia e di che luogo sia. Sì, in effetti qui si respira un'aria veramente, veramente pesante. E chi si è presentato oggi, chi si presenta oggi come candidato, tutto ha fatto nel proprio programma tranne dichiarare guerra aperta a questi clan o fare anche solo un minimo accenno, come se questi due anni di commissariamento non ci fossero mai stati. Ecco, sì, perché poi ricordiamo che ci sono stati due anni di commissariamento perché c'erano state precedentemente le dimissioni del mini sindaco del Partito Democratico Andrea Tassone, e poi il comune era stato sciolto per mafia. È stato sciolto per mafia proprio perché nella relazione del prefetto si racconta come questi clan ormai fossero talmente di casa nella pubblica amministrazione da sedersi proprio negli uffici di vertice, di punta di questo municipio e ottenere ciò che volevano. Infatti il prefetto Vulpiani, il commissario straordinario antimafia che è venuto qui, la prima cosa che ha fatto è stato vietare l'accesso, o meglio, registrare l'accesso di chiunque si presentasse al municipio e farne la tracciabilità, ovvero doveva dire vado in quell'ufficio. E sistematicamente la pratica non veniva seguita dalla persona a cui ci si rivolgeva di quell'ufficio. Cosa vuol dire? Piccole, grandi cose, insomma. Certo. Ma cosa vuol dire, Federica, vivere questi 1567 anni e 67 giorni sotto scorta? Perché hai detto bene, come fossero anni. Come fossero anni. Guarda, è molto dura anche perché io, oltre ad essere una cronista, sono una mamma e una moglie. Quindi la mia scelta è ricaduta inevitabilmente su persone che invece non hanno scelto di combattere in questa maniera il malaffare. Quindi è molto molto molto difficile gestirlo con dei bambini e con un marito. E a livello professionale ovviamente mi hanno tagliato le gambe, perché io poi ero una che lavorava molto sul campo, quindi facevo inchieste infiltrandomi in ambienti per scoprire, che ne so, il traffico delle armi piuttosto che i combattimenti clandestini di pitbull. Ecco, adesso tutto questo non è possibile dovendo tu andare in giro, no, con i carabinieri. Certo. Ma in questi anni tu hai continuato a occuparti di Ostia comunque, Federica, di quelli che erano la situazione, gli scenari che andavano disegnandosi, delineandosi anche in virtù di queste prossime elezioni? Certo, come no, sì, ne ho seguito l'evoluzione. Ogni volta che vedevo che questi criminali rialzavano la testa in un modo o nell'altro, quindi continuando a minacciare o a far del male ai commercianti qui a Ostia, ricattandoli con i loro metodi, ho sempre denunciato con la penna, insomma. Io quella ho, più di questo purtroppo non posso fare, però già è importante tenere i riflettori accesi, secondo me. Tra l'altro, Federica, qualche giorno fa c'è stata una vicenda alla Festa del Cinema di Roma che ti ha visto protagonista insieme ad altre colleghe sotto scorta, perché c'è stata questa polemica, è intervenuta, doveva intervenire o è intervenuta insieme a voi per lanciare una docuserie sulle donne di spicco della Camorra anche una ex camorrista, Cristina Pinto, che si è dissociata ma non pentita, insieme a te e ad altre colleghe. sotto scorta. E cosa è successo? Che nel momento in cui voi avete capito la commistione tra bene e male, chiamiamola così, avete preso e siete usciti dalla sala dicendo non possiamo rimanere nello stesso contesto, no? Diciamo che stare seduti allo stesso tavolo ha creato un po' di imbarazzo con una camorrista che in apertura ha detto che lei non si è mai pentita. Sì, si è dissociata ma non pentita, dicendo rifarei tutto. Esatto, sì. Essere relatrice allo stesso convegno e confrontarmi con ragazzi nello stesso tavolo non l'ho ritenuto opportuno. Io, a differenza delle mie colleghe, però non sono voluta uscire dalla sala. Sono rimasta lì in piedi, non seduta allo stesso tavolo, ad ascoltarla perché mi sembrava una forma di rispetto per i ragazzi coi quali ho fatto un percorso che è durato mesi nelle scuole sulla legalità, e poi perché noi siamo comunque fondamentalmente anche delle professioniste, e quindi noi tante volte ci siamo confrontate con il male per poterlo raccontare. Ecco perché io sono rimasta, a differenza insomma delle mie colleghe. Mi sono riseduta quando lei ha finito di parlare, ho spiegato ai ragazzi il motivo per cui non volevo condividere quel tavolo. Detto questo, ho dato il mio messaggio, non potevo lasciare carta bianca, certo, soltanto a lei. Federica, io ti volevo chiedere, in virtù di queste elezioni, se ci volessi fare un breve scenario di quello che tu immagini che accadrà, sia della grossa presa, il grosso ascendente che ha Casa Pound, che pare che siano gli unici a stare veramente sul campo, andare lì, aiutare le persone, portare gli anziani su e giù dai palazzi, e anche i clan, il clan degli Spada, di cui ti ho sentita parlare ultimamente anche in televisione, come si colloca nello scenario elettorale di domenica? Ma dunque, ha fatto un chiaro endorsement a Casa Pound, Spada, ma diciamo che questa unione, questa alleanza era già consolidata, e lo dimostrano anche le ultime amministrative, quelle che hanno visto vincere la sindaca Raggi, perché comunque lì Ossia Nuova, che è appunto il quartiere in cui abitano, il quartier generale del clan Spada, ha votato in massa a Casa Pound, ma la loro unione, diciamo, è stata consolidata nel tempo perché Marcelli di Casa Pound ha scelto di fare delle feste lì in Piazza Gasparri a Ostia Nuova proprio con Alberto Spada, che è il fratello del boss del clan. Ma diciamo, a puntare su quell'elettorato paradossalmente non è solo Casa Pound, ma anche il fronte, l'estrema sinistra. Noi abbiamo un candidato questo te lo sentivo raccontare, infatti, un'anomalia. Sì, un ex prete che viene fuori in uno dei processi per mafia di questo gruppo, di questi gruppi, che poi ha portato alle condanne, no, di sette esponenti del clan Spada. Ha venuto fuori in un'aula giudiziaria che pagava come, diciamo, indennità di povertà, nel senso, non per avere il cambio droga o tangenti, tutto rispetto ai principi cristiani, seppur Papa Francesco se ne sia poi dissociato, anzi abbia dato un messaggio molto forte. Dava questo obolo di 150 euro/300 a Massimiliano Spada, in quanto povero indigente, per vivere, secondo lui. Per vivere, secondo lui, che poi ha preso 13 anni e 8 mesi per estorsione con aggravante del metodo mafioso. Allora. È ovvio che il prete in questo caso, in questa vicenda, non c'entra nulla, non è che è stato complice, però già che dà messaggi, ieri ascoltavo un'intervista al Corriere della Sera dicendo: io se vincerò sarò al tavolo con i mafiosi, mi dirò fate i bravi per un anno. Ecco, a me sinceramente ascoltare frasi di questo tipo fa un po' quasi diminuire, no? Allora, noi ringraziamo Federica Angeli, giornalista di Repubblica, sotto scorta, ripeto, da 1567 giorni, per la vicenda, per aver raccontato e continuare a raccontare le cose che succedono a Ostia. C'è Giacomo da Milano, prima della pubblicità. Giacomo, buongiorno. Buongiorno. Sì. Io volevo parlare degli abbattimenti delle case abusive e mi facevo una domanda che non ho mai sentito fare. Quando si costruiscono delle case ci sono sempre fuori cartelli di chi è l'architetto, chi è l'impresa, il permesso, ma perché non agiscono prima? Cioè non è possibile, non sono i luoghi isolatissimi, sono attaccati a case normali. Cioè, questa è la vera domanda, lei dice, perché poi dopo intervenire dopo, quando sono poi ci sono tutti i procedimenti, intervenire prima, questo è un grande tema, e forse con anche la collusione. Anche perché sono cose che si sommano negli anni, cioè il nostro ospite di prima sono ordini di demolire case di 30 anni fa, primi ordini di demolizione risalgono a 30 anni fa. Ce l'ha detto l'ingegnere Ortega, per anni, ma è ancora forse un po' così, l'abusivismo è stato incentivato perché porta voti, e quindi qual è quel sindaco candidato sindaco che si oppone all'abusivismo? C'è stata una connivenza politica particolarmente importante. Sì. Comunque, dopo la pubblicità parleremo di questa inchiesta, invece, visto che tu hai citato Forza Nuova, che raccontava ieri Repubblica, coinvolge Forza Nuova perché si racconta addirittura in un'informativa del ROS di persone che venivano incentivate addirittura a picchiare proprio gli immigrati. Tra l'altro è successo un episodio di cronaca proprio qualche giorno fa, sì. E questo a Roma, e ne parliamo tra poco, state con noi. I funamboli. 1, 2, 3, 4. Buongiorno ragazzi, Vincenzo dalla Corea, il paese del calmo mattino vi saluta, ciao. Va bene, Vincenzo ci ascolta dalla Corea, è quello del subbuteo, Veronica. Tra l'altro, mi dicono, mi fanno notare, come è vero, che in cimurrito viene dal cimurro, c'è una malattia canina e quindi... Questo era in polemica perché io ti ho dato del gatto e non del cane? No, vabbè, dicono, suggeriscono anche... Cimurrito si utilizza, adesso io voglio fare un test, adesso apriamo il vocabolario. Ma da chi si utilizza? Forza cipicchiolina, se no mi dicono anche incatramato, potrebbe andare bene. Incimurrito, sinonimi. Okay. Ordunque, il sinonimo viene chiaramente da cimurro, malattia contagiosa diffusa in ogni paese, che chiaramente quindi maniera si inizia a stare attento, un cane incimurrito, in malattia infettiva contagiosa da virus filtrabile, spesso letale, eccoci qua, che colpisce i giovani cani e canidi. Il furetto è anche felidi. Capisci? Quindi incimurrito si utilizza in maniera un po' coccolona. Io ti dico, sei tutto incimurrito. Ma in realtà anch'io dico spesso, quando mi fa arrabbiare una cosa, detto mi fa venire il cimurro. Vabbè, ma comunque non entriamo in questi dettagli. Io non vorrei purtroppo avere un richiamo dall'Accademia della Crusca stamane a causa tua, che sei incimurrito. Allora, ieri su Repubblica c'era questa informativa del ROS che si riferiva a esponenti di Forza Nuova, secondo questa informativa, accusati di mettere nel mirino in maniera proprio scientifica gli immigrati da picchiare, fare pestaggi, soprattutto coinvolgere i giovani, i ragazzini. Sì, una specie come di istigazione all'odio razziale, indottrinamento vero e proprio, focalizzato in particolar modo sui minorenni, in quanto più così ancora in via di formazione, più fragili e quindi condizionabili. Sì, ovviamente c'è da dire che purtroppo la stupidità, insomma, è anche il razzismo c'è, ci sono sacche di razzismo, ci sono, e lo vediamo. Enorme, sì. Una delle cose che colpisce molto di questa vicenda sono le reazioni anche di alcuni genitori, di cui purtroppo non conosciamo i nomi, non abbiamo avuto modo di invitarli, ma alcuni che sono addirittura dovuti ricorrere all'intervento di terapeuti, psicologi, per portare i figli a disintossicarsi da questa sorta di indottrinamento ricevuto. Quindi si parla di un lavaggio del cervello, se così lo vogliamo chiamare, esaustivo. Allora, noi abbiamo invitato uno dei rappresentanti della comunità bengalese a Roma, Siddique Nur Alam, e spero di pronunciarlo bene, ma tutti lo conoscono, dicono a Roma, come Bacciù. Buongiorno e benvenuto, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a voi e tutti gli ascoltatori. Intanto c'è stata questa aggressione proprio un suo connazionale un paio di giorni fa. Come sta? L'avete sentito? Sì, adesso un po' meglio, mm-hmm. Però comunque ancora lui psicologicamente distrutto, c'è un paura, c'è una cosa che ancora lui soffre, questo diciamo. Ecco, questa paura ce la può descrivere? Cioè davvero ci sono molti suoi connazionali che non bazzicano alcune zone di Roma, non le frequentano per paura? Allora, dico, come primo ho sentito che un'indagine che ha fatto Carabinieri, no? Di ROS di Carabinieri da quasi 4 anni. Questo diciamo, sì, una cosa della Bangla Tour, che loro nominava così. Il Bangla Tour, che sostanzialmente sarebbe andare in giro per la strada cercando delle persone bengalesi da picchiare per sfogare. Sì, è questo realmente sì. Diciamo, e poi puntano, attenzione, perciò ben preparato, puntano verso la persona che ritorna dal lavoro. Io dico come, diciamo, rappresentante portavoce, come diciamo, della comunità, abbiamo riscontrato tutte queste aggressioni. Le vittime sono ritornate dal lavoro dopo mezzanotte e iniziano questo tipo di aggressioni. Poi quello purtroppo Baciu è anche una zona del giorno magari presidiata, meno controllata. Per via dell'orario, perché è più tardi o perché sono persone che lavorano e quindi sono più indifese, perché magari sono meno abituate? Più indifesa, allora discorso, più indifesa perché forse soltanto sono che riparte. E poi attenzione, ma parte di questi campi dei ragazzi italiani comunque minorenni, adolescenti da 16-17 anni, questo. E diciamo, questo puntano comunità bengalese, non lo so perché, però là, se noi andiamo a vedere, diciamo con tutto rispetto, la presenza della comunità bengalese in Italia, secondo numerico 19esimo, cioè siamo circa tutto nazionale 140.000, nazionale io intendo di dire. Sì. Ma se andiamo a vedere anche, diciamo, la criminalità, cioè ultimo di tutto questa comunità, ultimo di tutto. Però un aspetto interessante che lei ha fatto notare in un'intervista qualche giorno fa è dire: se la prendono con i bengalesi perché noi per cultura appunto non reagiamo, non siamo non violenti, non siamo mai aggressivi. Perché non se la prendono con culture di persone magari lei anche diceva, fisicamente i nigeriani, più prestanti, che sono sited. Io non dico che li tirieni come aggressivi, attenzione, allora sì, è vero che i bengalesi, sì, anche voi vedete, no, non c'è questo, diciamo, cittadini, noi lavoratori cittadini bengalesi, massimo tra di noi litighiamo, forse qualcuno lassiale, qualcuno romanista, è banale di questo. Su quello tu capisci bene, Alessandro, certo, sei solidale. Tra di noi c'è questo anche, loro, certo, laziali, e litigano dentro bar, questo, ma diciamo con terza persona, no? Essere aggressivi o organizzare per dare una cosa che è brutto. Però una volta, ricordo io, dai, 2 anni fa a Turpinitara, 2 fratelli ritornando dal lavoro alle 3-4 di mattina, è proprio Turpinitara, e subito un'aggressione da 4-5 ragazzi italiani. E loro urlato, 2 fratelli, e vicini erano 2-3 case dei bengalesi, e tutti venuti per difesa, giustamente, no? E veramente lì è uscito, diciamo, questi 4 ragazzi italiani, ricevuto giustamente qualche botte sicuro, perché erano decine di bengalesi. Immediatamente arriva polizia, i bengalesi tutti sono denunciati per la rissa, però attenzione, le aggressioni erano pura razzismo. Ecco, lei dice questo termine, secondo lei c'è razzismo in Italia? Allora, c'è razzismo in Italia, io non dico per cittadini italiani o lavoratori italiani sono razzisti, c'è un'area politica, strumentalizzano questa situazione, non possiamo dire Italia è razzista o italiani razzisti, ma questo soltanto un'area politica mettono questa situazione, questo che io vedo come comunità bengalese, perché i lavoratori bengalesi lavorano dentro, come si chiama, negozi italiani, sotto diciamo, no, proprietari italiani, perciò non è che i datori di lavoro italiani dicono brutto, negro, esci fuori, tu non puoi lavorare, cioè, non c'è un razzismo diffuso dire? Però ci sono delle sacche di razzismo che permangono, oltretutto in cui la religione non c'entra niente in questo caso, che invece è un fenomeno che in questo momento ha presa, qui è proprio una cosa a prescindere, è un fatto razziale, no? Che c'è, purtroppo c'è. Allora noi la ringraziamo Baciu, è più semplice rispetto a dire Siddique Nuralam. Siddique Nuralam, che è responsabile, uno dei responsabili della comunità bengalese a Roma, è il momento di andare al traffico. Sai che secondo me c'è WhatsApp down? Sai quando si dicono Facebook down? Dici? Sì, mi confermano. Non so, ti ho mandato 50 messaggi WhatsApp in questo momento, ma non ti è arrivato niente. Non lo dire davanti a tutti, dai, no, che nel frattempo mi mandi messaggi e mi importuni insulti, mentre andiamo in onda. Su, per favore. Erano insulti come sempre. Comunque, la potente regia con un Rocchetti con un codino sulla testa, è bene che lo sappiate tutti, il nostro tecnico qui di Roma mi dice che purtroppo WhatsApp down. WhatsApp down. Allora, Leonardo Manera è qui. Prima del traffico, hai avuto storie col cimurro di recente? Cimurro, io l'avevo già sentito dire incimurrito. Bravo, Leo. Pensavo io l'avevo già preso. L'avevo già preso, il cimurro. Meno male che tu ogni tanto senti parlare bene. Ma mi chiedono dalla regia, che ha fatto il Milan ieri? Beh, ieri il Milan ha fatto un pareggio. Siamo primi in classifica in Europa League. Informo, perché so da chi è arrivata questa domanda, che vinceremo a mani basse l'Europa League quest'anno, mentre per dire l'Inter non vincerà nulla. E poi l'anno prossimo combo scudetto Champions League. Oh. Non sono autorizzata a riferire le repliche. No, no, sarà tutto meglio alle spalle. Quindi Europa League quest'anno, trionfo a mani basse, e l'anno prossimo scudetto e Champions League. Registriamo questa affermazione di Alessandro Milan. Registratela, la sto mettendo su Twitter ogni giorno. Tranquillo. Noi perfetto, registriamo. Invece ieri ha vinto la squadra di papà, vero? Sì. La Lazio ha pareggiato la Lazio. No, ha vinto ieri la Lazio. Ha vinto. Se ti dice che ha vinto la squadra di papà, lo saprà, no? Dirà a caso. Perché... è l'unica, no, è l'unica cosa a cui faccio attenzione. Abbi pazienza. Poi devi chiamare e dire: papà, mi fai sto favore? Ha perso la Lazio, hai finito. Fammi vedere un attimo. Ha perso la Lazio. Si è perso la Lazio. 1-0 contro il Nizza. Viva papà Gentili. Andiamo al traffico. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta i funamboli. Oh, make me over. Vorrei farvi notare che il primo trend topic su Twitter volevo dire è WhatsApp down. Dilla bene, perché così Manera ti va in confusione. Volevo dirvi che abbiamo capito tramite un trend topic su Twitter che WhatsApp è down. Come ti senti, Leo, adesso? Cioè, cosa vuol dire esattamente? Che tu WhatsApp non ci pensare, non vai dritto. WhatsApp down. WhatsApp è rotto. WhatsApp down. No, ma il problema è che non funzionando WhatsApp, dove puoi averne la certezza? Su Twitter, perché esatto, questa notizia diventa trend topic. Ma quindi noi, stasera studia tu su questo tema, noi Leo. Ci stiamo adeguando al nuovo film di Moccia, non so se sapete di cosa parla, è di questa classe che va in gita scolastica in un posto dove non c'è campo, e non essendoci campo ricominciano a coltivare i rapporti umani. Quindi noi tutti, essendo seguaci di Moccia, preferiamo non avere campo, giusto? Perfetto. Ma diciamo che senza WhatsApp la prima conseguenza è quella che io e Alessandro Milan non possiamo più comunicare a distanza ed è finito. Questa non è una cattivissima notizia, no, insomma, per me è anche ottima, però insomma, diciamo che dovremmo avere così una complementarietà stamane che non avremo, ma del resto. Veronica, stamattina ho bisogno di te, però. Eccomi. Perché questo è un periodo complicato per i maschi, perché sembra che tutti i maschi prima o poi si siano resi colpevoli di molestie sessuali. Allora io vorrei anzi, come si diceva una volta, affermare con forza che non è così. Io vorrei lanciare una campagna oggi che si chiama Uomini con la coscienza a posto, per dimostrare che non tutti gli uomini sono laidi, viscidi, approfittatori e fanno schifo umanamente. Siccome tutti fanno outing, voglio raccontare alcuni episodi della mia vita in cui, volendo, secondo la logica di questi giorni, avrei potuto essere accusato di molestie. Poi tu, Veronica, di volta in volta, su ogni episodio mi direi se questo è identificabile come molestia oppure no. Perfetto, sei pronta? Sì, vado. Primo episodio, seguendo la logica di questi giorni, si riferisce a tanti anni fa, perché ormai tutti raccontano episodi di molti decenni prima. Il mio risale a 43 anni fa. Avevo 7 anni, era venuta a giocare a casa mia una bambina, mia compagna di classe, anche lei di 7 anni. L'ho presa per mano e a sua insaputa l'ho portata in camera da letto a saltare sul materasso senza che lei mi avesse dato il suo consenso esplicito, tenendole la mano. Ma saltare sul letto tenendole la mano, visto col senno di poi, avrebbe anche potuto essere giudicato una molestia. Sono libero da molestia o no qui, Veronica? Molestia, questa è già la prima molestia. È già molestia questa. Questa è già barrata come molestia. Andiamo senza a... dubbio. Faccio, le sto mettendo le croci. Ottimo. Punto 1, molestia. Alcuni anni dopo, al liceo, 16 anni, gita scolastica a Certaldo in Toscana, pigiama party, siamo tutti in una stanza col pigiama, io indosso pigiama marrone, pantaloni del pigiama marroni, maglia marrone un po' più chiara. per darmi un tono, cappello con visiera che avevo comprato qualche giorno prima per andare in gita. A un certo punto della serata, lei, quella che per anni è stata il simbolo erotico e di femminilità di tutta la mia adolescenza, dice: ho fame. Io ho nella mia camera un panino al prosciutto preparato da mia madre, avvolto nella carta stagnola. Marrone. Perciò glielo dico: nella mia camera ho un panino al prosciutto, me l'ha dato mia madre. Lei mostra interesse. Io la prendo in braccio, la porto in camera, siamo in camera da letto, io prendo il panino, lo tolgo dalla stagnola e lei si siede sulle mie ginocchia a mangiarlo. Possibile episodio di molestia, perché in quel momento lei era affamata, io avevo il panino al prosciutto di mia madre, quindi in qualche modo ero in una condizione di potere e dominante. Questa è molestia, Veronica, pure tu, no? Tu capisci, caro, che mi hai appena fatto un racconto pornografico in cui parli di panino al prosciutto da vedere nella tua camera, che poi è stato tolto dalla carta stagnola. Io sono inorridita. Molestia, molestia. Poi è arrivato il professore di filosofia e è finito tutto. Terzo, l'ha mangiato povera lui. Ragazza, l'ha povera mangiato ragazza, lui il prosciutto. Diamole un sostegno, veramente. Terzo e ultimo episodio. 15 anni fa, dopo mesi in cui esco a cena e mi vedo con una ragazza senza combinare nulla e anche senza tentare l'approccio, perché capivo che lei non era interessata, ecco, all'ultima cena provo a avvicinare le mie labbra alle sue dopo cena, sussurrandole anche alcune parole tipo: bella, mi piaci, prossimo a te, amore. Allora, ma lei volta la testa dall'altra parte e mi dice: fai il bravo. E io, come più volte mi è capitato nella vita, mi ritrovo, l'ho già detto una volta, a baciare la sua mandibola, perché più che le labbra mi sono sempre ritrovato a mangiare, baciare delle gran mandibole. Perché tu imperterrito ti sei buttato uguale, nessuno ha potuto fermarti. No, perché quando l'uomo cerca di baciare, la donna velocemente gira la testa e quindi tu ti ritrovi qui sulla parte della mandibola e dice: fai il bravo. Prendi una bella caraccata sulla mandibola. Però ho provato a baciarla, quindi volevo chiederti anche in questo caso: si tratta di molestia oppure no? Mi costringi alla serietà e ti devo dire che non è molestia. Allora, non è molestia, quindi possiamo io almeno posso affermare di essere un uomo con la coscienza a posto. No, per la verità, il panino al prosciutto e il mano nella mano lì sul letto, e sono due situazioni veramente incresciose, oltretutto perpetrate su minori. Poco interesse che tu fossi un bambino e o un adolescente. Quindi non sono stato assolto da queste due molestie e non una posso nove, lanciare dite. Uomini con la coscienza a posto. E allora assolutamente io... no, l'unica situazione è la mascellata mandibolata che ti sei preso in faccia, attraverso la quale hai già espiato le tue colpe. Allora, ma è l'unica. Io rivendico la possibilità di provare a tenere la mano di una donna senza che immediatamente venga qualificato come molestia e senza che subisca subito l'effetto Weinstein. Uomini con la coscienza a posto. Tu, Alessandro, sei un uomo con la coscienza a posto. Ma io sì, però tu no, se ho capito bene. Nel senso che due molestie e una no, diciamo che io, hai io un sono 66%. Abbastanza sicura che Alessandro non avrà mai avuto il fegato o la faccia veramente di bronzo da prendere una bambina per la mano. Sono certa che non lo ha fatto. No, non lo so. Io quando Silvia in prima elementare, eccoci, che amavo alla follia, mi ha Silvia, detto: Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale quando Alessandro... Vabbè, andiamo, va. Che è successo? Cosa successe? Se posso, quando Silvia, che io amavo in prima elementare, mi disse: sei il bambino che più mi piace, io, terrorizzato, disse: ma guarda che tu piaci a Fabrizio, che era il mio compagno di classe preferito. E quindi questo è il mio approccio terrorizzato nei confronti dell'altro sesso. Comunque adesso voi non ci crederete, ma io a distanza di anni ricordo ancora quel panino mangiato, tolto dalla stagnola. Ricordi e lei ricorda quella molestia, peraltro. Ma vogliamo fare un appello alle giovinotte che hai chiamato qui nell'elenco, e vogliamo chieder loro se si sentono molestate da Leonardo Manera? Già una volta ha detto un nome della prima che ha baciato e stava succedendo un putiferio. Andiamo al giornale radio, che poi dopo la persona si è riconosciuta. Andiamo al giornale, soprattutto il marito l'ha riconosciuta. Andiamo al giornale radio, la seconda ora di Funamboli tra poco. Donna, in quei giorni particolari del mese ti piacerebbe poter andare in moto, andare a cavallo, andare in discoteca, cimentarti in incontri di lotta greco-romana? Ebbene, tutto questo con gli assorbenti Bellugi diventa un sogno. Assorbenti Bellugi, permeabili, evidenti, ingombranti. Assorbenti Bellugi, l'ideale per essere costretta a casa e poterti così dedicare a te stessa. Prova anche tu gli assorbenti Bellugi. Soundcheck, il suono della musica. Adige Getelesforo. Sì, è vero, vi aspetto il sabato e la domenica a partire dalle 19.15 per un pieno di grande musica in collegamento dal Groove Master Studio per il soundcheck, tutta la nostra migliore discografia e tanta musica dal vivo, sempre soltanto su Radio 24. Yes. I funamboli. Signori e ascoltatori e ascoltatrici, è inutile che prendete il cellulare, lo resettate, lo buttate nell'acqua, lo cambiate, entrate disperati dicendo è rotto, non funziona WhatsApp, rassegnatevi. È l'inizio allora, di una nuova rivoluzione umanista. Esatto, non funziona. Scendete WhatsApp in farmacia e chiedete delle compresse che aiuteranno a lenire l'effetto fino a quando WhatsApp non riprende a funzionare. Sì, però non spaccatelo il cellulare, non dite oddio, non è rotto tutto. Tutto scollegato. Non succede la fine del mondo. La Nord Corea non ha lanciato missili nucleari. Non c'è WhatsApp per. Pensa che effetto avrebbe superiore se Kim Jong-un riuscisse a disattivare, che ne so, WhatsApp. Magari Facebook. È stato lui, che ne sai. Magari è stato lui. Potrebbero essere le avvisaglie. Certo, però se volete mandarci un WhatsApp 349. Sei veramente uno spirito giovane. No, 349-238-6666. Mandate i vecchi SMS. Sì, tocca tornare agli SMS purtroppo. Sì, quelli funzionano. Quella vecchia tecnica, no? Che qua molti in abbonamento ce li hanno anche gratuiti, per cui si può anche fare. Vintage. Mi chiedono, Milan, vai a riposare, è meglio per tutti, cosa fai lì? Ma era Manera che era stanco, però vabbè, insomma. No. Ma a me hai anche chiesto qual è di preciso la mia mission. Non lo so, secondo voi qual è? Una mission. Bisognerebbe capire esattamente cosa vuol dire mission. Ma cos'è una mission? Non lo so, la risposta dovrebbe essere che è impossible, no? Esatto. Mi sembra l'unica risposta che posso dare al nostro ridente ascoltatore. La mission di Veronica Gentili è impossible. Allora, la mia mission è impossible. Al momento delle 10:10, in questo momento è il momento dunque del funambolo del giorno. Nome: Graziano. Cognome: Chiaro. Età: 65 anni. Dopo aver lavorato per anni come manager, ha deciso di ricominciare a studiare facendo un dottorato in fisica. L'anno prossimo seguirà alcuni progetti della NASA. Non so se avete capito, dottor Chiaro, buongiorno. Buongiorno a voi. Laureato in chimica un po' di anni fa e ora nel 1981. Ora dottorato in fisica a 65 anni e lavorerà per la NASA, cioè del tipo proprio, no? Lei straordinario. Non si ferma mai. Fa 31. No, sì, è vero. Tutto vero questo. Sì, ho preso questo dottorato in fisica perché, come dire, faceva parte di un vecchio sogno che io avevo e sempre tenuto nel cassetto, e a un certo momento dico, è giunto il momento di realizzare anche i miei sogni. Beh, però dalla chimica alla fisica c'è una specie di continuità, o no? Sì, è un po' cugina la cosa, no? Ma perché quindi, era finalmente andato in pensione, poteva, no, si è staccato, che ha fatto? Diciamo che mi sono staccato dal mondo dell'impresa e sono rientrato nel mondo degli studenti dell'accademico e ho lasciato un po' il mondo del denaro, del marketing, delle strategie e sono rientrato nello studio. È rientrato nello studio e tra l'altro proseguirà le sue ricerche al Goddard Space Flight Center in Maryland. Della NASA. Sì, questo è vero. Dal momento, anche grazie alla scuola di dottorato di fisica di Padova, dove mi sono laureato, già dall'inizio del dottorato ho avuto la possibilità di entrare in contatto proprio con il Goddard Space Flight Center, che è a Washington ed è in realtà il grande centro di ricerca di NASA, e con NASA ho avuto una collaborazione molto attiva e negli articoli che ho scritto una delle firme è proprio Dave Thompson, che è un senior scientist di NASA, e ci siamo incontrati a Washington già credo 4 o 5 volte insomma, e quindi proseguire proseguirò su questa strada, lavorando con loro su un progetto che stiamo mettendo a punto, e in parte con febbraio e marzo all'Università di Stanford, che sta dall'altra parte degli Stati Uniti, cioè nella California, più bella di Washington, non lo diciamo a nessuno, però in realtà molto prestigiosa. Senta, come si è trovato a tornare sui banchi dell'università e come la vedevano gli altri studenti? Come un grande fuoricorso oppure sapevano della sua storia? All'inizio molto comica, perché nel momento in cui io sono entrato avevo deciso di entrare in punta di piedi, quindi di riscrivermi all'università, ero partito proprio dal primo anno di fisica, e quindi il primo giorno che sono entrato in aula si sono alzati tutti in piedi pensando che fossi il professore. Certo, invece poi hanno capito che era un compagnuccio e che potevano assolutamente trattarla alla pari. Quindi mi hanno preso, sì, in realtà mi hanno preso bene e quindi sono diventato un po' uno di loro, e questo devo stare attento anch'io come interpretare la parte, perché la mia età c'è, insomma, no? Però posso dire veramente che non ho avuto assolutamente nessun tipo di difficoltà né nella scuola e tantomeno nel mondo della ricerca, dove ero un po' così titubante per l'età, ma invece l'accoglienza è stata veramente bella. Vede. Ma è una seconda post-adolescenza questa? Sì, è una seconda giovinezza, e quindi ormai adesso sono convinto di vivere circa fino a 300-400 anni. Tra l'altro mi ha molto colpito, perché lei alla NASA, se ho letto bene, studierà anche progetti legati ai buchi neri. Io ricordo uno dei libri più belli, più affascinanti, è quello di Stephen Hawking, no? Dal Big Bang ai buchi neri, quando lo lessi anni fa rimasi veramente estasiato, anche per la capacità di Stephen Hawking di raccontare anche, come si vuol dire, for dummies, cioè per persone non proprio esperte, no? Le basi dell'universo. Io non ho mai capito esattamente cos'è un buco nero. Sparisce tutto, dicono, il buco nero. Certo, è una stella che collassa, ma non vorrei rubare il lavoro a dottor Chiaro, no? È vero, non che fare delle cose più grandi di te, delle cose dalle quali non c'è ritorno. Parlando oggi di Stephen Hawking, è come dire che è bravo in fisica è come dire che Maradona è stato carapallone. Ma è un bravo divulgatore anche, scrivere un libro per esperti del settore magari sono capaci tutti, invece lui ha scritto un libro che lo può leggere chiunque, ecco. In realtà questa cosa che noi chiamiamo buco nero lo chiamiamo proprio nero, perché non sappiamo che altro nome darci. Sappiamo che cosa succede dentro là, e come alla materia oscura la chiamiamo oscura perché non sappiamo che altra roba, come altro diavolo chiamarla. Questa è una spiegazione chiarissima, vedi? No, la chiamiamo oscura perché chiara non è, insomma, no? Nel senso che sappiamo che cosa sta succedendo, quello che il buco nero si mangia dentro, però oggi abbiamo scoperto che due buchi neri si scontrano tra di loro e generano quella cosa che oggi ha portato al nome, che si chiamano le onde gravitazionali. E cercando di dare una risposta a questo grande punto di domanda che ancora noi umani subiamo ma non sappiamo che cos'è, che è la forza della gravità. Senta, ma è vero che addentrandosi sempre di più, diciamo, nei segreti della fisica ci si avvicina di più anche a Dio, oppure no? A lei è capitata questa cosa? Beh, nel momento in cui ti avvicini a capire quando nasce l'universo e ci sei così vicino, poi alla fine qualche domanda su questo ordine che si trova sia in qualsiasi punto dell'universo, quindi questa isotropia che c'è, anche se proprio vero non è, qualche anisotropia c'è, però in questo ordine qualche pensiero ti viene, però come posso dire, il fatto di essere fisico e abituato ai numeri forse ti stravi un po', però mia moglie ogni tanto mi guarda dall'alto e mi dice: non lo stai facendo. Ma io volevo chiederle una cosa invece. L'altro giorno c'era un bel sondaggio su Repubblica di Ilvio Diamanti, dico, molto discusso con il mio collega Milan, che poi sostiene che per gli italiani nella percezione collettiva la gioventù dura fino ai 52 anni e la vecchiaia comincia dopo, per qualcuno dopo i 76 e per altri addirittura dopo gli 80. Lei come la vede nell'ottica dell'esperienza di studi che ha appena intrapreso e di questa seconda vita appena cominciata? Beh, siccome mi sento un ragazzino non posso dare che ragione a Ilvo Diamanti, che fra tante cose è un bel veneto anche il nostro, certo, che ho conosciuto, e quindi sì, in realtà ora scriverò il fatto che la pensione la portino pure avanti, perché comunque a me arriverà verso 90-95 sì, anni. Esatto, proprio non si sente molto pensionato. No, direi che non è lui l'emblema del pensionato. No, dire la verità, proprio no, e anche questo, diciamo sì, questo nuovo aspetto della mia vita mi dà anche molta gioia alla fine, oltre alle soddisfazioni. Ma sicuramente sì. Intanto noi le facciamo tanti in bocca al lupo, ovviamente, Graziano Chiaro, che andrà con la seconda laurea, dopo la laurea, il dottorato di ricerca in fisica, a lavorare, a fare il ricercatore alla NASA. Grazie davvero per essere stato con noi. Tanti complimenti, davvero. Bocca al lupo. Grazie, ci faccia sapere. E buona giornata. Ci faccia sapere, grazie, quando è la prossima festa per le matricole, che veniamo anche noi. Ragazzi, dopo questo esempio, non è mai troppo tardi. Sì. Anche voi che pensavate di essere ormai perduti e andata, potete sempre avere una seconda chance. Vi rimettete a studiare e un domani alla NASA. Attenzione, annunciazione: WhatsApp funziona. Cari italiani, il panico è finito. Il panico è terminato, potete tornare a essere allegri e contenti. Mentre noi dopo il traffico parleremo e torneremo a parlare del tema delle biciclette. Ma sapete che a Bologna c'è il sindaco di Bologna che ora non vuole più saperne di bici contromano, di bici che sfrecciano sotto i portici, magari a velocità un po' tra i pedoni, e quindi vuole fare un giro di vite contro le biciclette. Cycle Far West. Ragazzi, guardate che questo tema fa molto arrabbiare chi va in bicicletta. Tra poco. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta I Funamboli. E allora siamo qui, sono le 10:20 minuti, diamo il benvenuto al sindaco di Bologna, Virginio Merola. Buongiorno al Partito Democratico. Sindaco, lei ce l'ha con i ciclisti? No, ovviamente, ovviamente no. Sì. Bike hitter. Sì. No. Sindaco, ha avuto un trauma in bicicletta, ce lo dica. No. Ma poi no, Bologna. La giovane, pedalavo tantissimo per le vie della periferia, è stato bellissimo. Sentite, io sto facendo una campagna per il risveglio civico, perché a Bologna, come in altre città di questo paese, c'è molta caduta dell'educazione civica. Dopodiché faremo per un determinato periodo, per ricordare che ci sono delle regole basate sul rispetto degli altri, e faremo multe a tutti quelli che violano il regolamento di polizia municipale. Oh, ce lo dica. Quindi, cioè, per esempio, cosa hai vietato? I ciclisti contro mano, i ciclisti senza le luci, chi lascia la macchina parcheggiata in doppia fila, chi il mio cane deve fare la cacca qui perché ho bisogno di fargliela fare qui, e via così. Sì. Quindi nessuna crociata contro nessuno, semplicemente una città civile, bisogna rispetto, che tutti facciano la loro, però, la sindaco, loro parte. La questione del ciclista contromano, sai che è molto controversa, perché secondo alcuni da codice della strada si può, cioè si può nel senso che è consentito, è tollerato, ci aiuta a capire, cioè in realtà posso farvi un appello, che siete una bella radio, ecco, spiegate ai parlamentari nazionali che la vita delle città è una cosa molto importante, la vita quotidiana, e ogni città ha una sua peculiarità. Bologna ha il grande vantaggio di avere 40 chilometri di portici, cosa unica nel mondo. Se mi vanno sotto i portici i ciclisti, non è un bel vedere per i pedoni e per quelli con le carrozzine o per gli anziani. Quindi è vietato, quello è vietato. E noi cosa dobbiamo chiedere di fare ai parlamentari nazionali? Di lasciare liberi, evviva, lasciare liberi i comuni a seconda delle proprie città di regolarsi tenendo conto della propria città. Se passa una legge per andare contromano, io voglio essere libero di dire in che zone si va contromano. Ma non lo siete già, sindaco? Non avete già? No, assolutamente no. Le posso fare un altro esempio. Noi abbiamo fatto i T-Days, cioè il sabato e la domenica, con soddisfazione generale, migliaia di cittadini invadono il centro storico che è pedonalizzato. Ora si dà il caso che in una città normale vivono degli anziani. Bene, se io voglio far passare un autobus anche piccolo durante la pedonalizzazione dei fideis, non posso, perché la norma nazionale dice che se faccio passare un autobus, automaticamente devono passare tutti i taxi e tutti i contrassegni handicap del mondo. Allora, per favore, aiutateci, facciano delle norme nazionali generiche e poi ci pensiamo noi. Sì. Ma ce la spiega una cosa, sindaco? Perché su alcune materie si possono fare le ordinanze, come abbiamo visto, ci spiegava Nardella, per esempio, sul tema della prostituzione e della contrattazione, fare le multe, sulla movida, per esempio, si comincia a pensare a delle ordinanze in loco? E perché su temi come questi no, secondo lei? Perché c'è un codice della strada nazionale che non è, quindi non viene applicato. È bello, è interessante questo dibattito, perché mutate questo e quello. Se no è omissione di atti di ufficio. Detto questo, Bologna è una bella città, civile, adesso è piena di turisti. Io non ce l'ho con nessuna categoria, anzi odio le categorie. Penso che possiamo essere una città di persone, cioè non di individui che fanno quello che gli pare, di persone che fanno un uso responsabile della propria libertà. Ma lei qui richiama l'educazione civica, che è un tema ormai in Italia che si va perdendo appunto sempre di più, direi. Ma siccome noi vogliamo rimanere in Europa, nel senso che pensiamo ancora che l'Europa sia una cosa civile, malgrado molti abbiano dei dubbi, allora, l'altro giorno dei cittadini hanno inseguito finalmente due cinquantenni, a proposito di chi imbratta i muri, che imbrattavano i muri con scritte inneggianti a Viva il Duce. Bello! In questa città abbiamo fatto oltre 300 patti di collaborazione. Cosa significa? Vuoi verniciare la panchina? Vuoi ristrutturare un immobile? Io ti aiuto a farlo e tu te ne prendi cura. Significa che in un parco ci sono molti cittadini che si autogestiscono il parco e se ne prendono cura. Bologna ha bisogno di questo. Di quindi responsabilizzazione civica dei cittadini. È importante però da capire, sindaco, sotto i portici le biciclette non possono andare, se no incorrono in multe? Incorrono in certo. Okay. E anche contromano, se no incorrono in multe. Contromano anche, ma bisogna conoscere, ma vi spiego... Io spero che in tanti scattiate a Bologna prima che potete, però abbiamo delle strade medievali. Allora, o ci rispettiamo, oppure succede il caos. Oltretutto, il problema principale è quello dei morti e dei feriti per incidenti d'auto e di mobilità. Qual è il problema principale? L'arma della distrazione di massa. Mi vanno tutti in giro col cellulare in macchina, vanno col cellulare in motocicletta, mi vanno in bicicletta col cellulare. Per esempio in bicicletta sul cellulare che cosa puoi fare? Multarli? Si possono multare? Come in macchina? Spero di sì, non sono preparato. Dobbiamo capire se li ha permesso. È vietato come per i motorini delle macchine. Comunque, spero sindaco, proprio di sì. Vedremo come va a finire. Tenevo a chiarire con voi che il mio problema che non ce l'ha con nessuno. No, no. Ce l'ha con gli incivili. Con gli incivili. E il problema sa qual è? Che nella vita quotidiana ognuno di noi fa parte di qualche comportamento incivile, perché io uso la bicicletta, l'auto, la moto e quindi non voglio rassegnarmi a fare l'automobilista o il ciclista, siamo persone, viva Dio. No, ecco, è chiaro, tutto è qua. Chiaro. Va bene, sindaco, noi la ringraziamo. Noi faremo l'appello ai parlamentari nazionali, esatto, che lei ci ha detto di fare, risolviamo noi il problema, sindaco. Sindaco Virginio Merola del Partito Democratico a Bologna, grazie ovviamente. Grazie e tra l'altro vogliamo allora c'è Maria Rosa che ci chiama da Trento, vediamo Maria Rosa che ci vuole dire. Buongiorno. Buongiorno a voi. Sono pronto? Sì, certo, sì. Maria Rosa. Sono una fedele ascoltatrice della vostra trasmissione per tutta la mattinata, normalmente. Bene. Mi univo a piene mani, se si può dire, a quanto ha detto il sindaco di Bologna, perché anche a Trento si verifica una situazione più o meno analoga. Non abbiamo i portici, ma abbiamo i marciapiedi, sui quali sfrecciano velocemente e numerose le biciclette. E noi pedoni, apro parentesi, vado anch'io in bici, sono andata molto nel passato, ma cercavo di rispettare i pedoni, andavo piano, scendevo, salivo, insomma, rispetto con un rispetto reciproco. Quindi, no, ma perché il rispetto è alla base, cioè, di tutto, chiaro. Maria Rosa. Ma adesso non vorremmo categorizzare appunto i ciclisti. Tra l'altro abbiamo una rappresentante, no, abbiamo chiamato ancora della FIAB, Simona Larghetti, presidente Salva Ciclisti Bologna. Simona, buongiorno. Salve, buongiorno. Ha sentito il suo sindaco dire non è una crociata contro i ciclisti, però sotto i portici multa, contromano multa, insomma dovete rispettare il codice come tutti, ecco. Ma il codice lo dobbiamo rispettare tutti, le multe contromano e sotto i portici non si fanno certo da oggi, non è una novità, nel senso che è una cosa che i vigili urbani a Bologna hanno sempre multato. E lo trova giusto? Trova ma giusto. Assolutamente sì, non è questo il punto. Il sindaco ha detto parole di grande buonsenso, però poi nei fatti quello che è accaduto negli ultimi giorni è molto diverso. Cioè sono stati mandati delle pattuglie di vigili in borghese, cosa che finora era stata fatta solo per gli spacciatori a Bologna, di mandare i vigili in borghese come pericolosi criminali per multare solo i ciclisti. I ciclisti come spacciatori. Secondo lei perché? In determinate strade dove sono due o tre stradine del centro storico dove ci sarebbe dei 30, e come dice il sindaco sono strade medievali, quindi dove bisognerebbe andare piano e dove bisognerebbe eliminare anche il parcheggio, visto che hanno un valore anche architettonico. Se eliminassimo il parcheggio ci sarebbe spazio per passare anche in bicicletta in entrambi i sensi, cosa che ad oggi non è possibile. Quindi in queste strade particolari a senso unico sono stati mandati i vigili a fare proprio delle imboscate, non un vigile nella sua normale routine verifica delle contravvenzioni. Insomma, non piace il non le piace il metodo, abbiamo scambiato per spacciato. Ma perché? Ma secondo lei perché? Che cos'è che li ha fatti così illivorire nei confronti dei ciclisti, addirittura da fare dei raid in borghese? Ma semplicemente è che a Bologna la bicicletta è aumentata del 40% nell'uso negli ultimi 5 anni, ma di pari passo non sono aumentate le infrastrutture ciclistiche, quindi i ciclisti sono sempre di più ma non sanno dove andare, per cui finiscono per comportarsi in maniera spesso in determinati contesti non in armonia con i pedoni, che vanno sempre rispettati. Però io rispondo anche alla signora di Trento, il ciclista è una persona che vuole arrivare presto, come l'automobilista, come chi usa il mezzo pubblico, va nella strada dove si sente più sicuro, non è che va sui marciapiedi per dar fastidio. Questo non per giustificare, rischia di essere schiacciato, e quindi cosa fa? Va dove si sente più sicuro, a quel punto è il pedone che diventa più a rischio. Purtroppo a rimetterci è sempre il pedone. Il sindaco ha parlato di morti in aumento tra pedoni e ciclisti. Però poi andiamo a vedere, i pedoni muoiono sugli attraversamenti pedonali falciati automobili che non rispettano il rosso, e quelle non vengono sanzionate. Se vengono prese, devono essere sanzionate a priori. Il diritto di precedenza sulle strisce pedonali, voi guardatevi nelle vostre città, non viene chi si ferma per nessuno. Far passare il pedone, se ci fosse un vigile fermerebbe, darebbe la multa, è chiaro il problema. Quante volte ci è capitato di indicare ai vigili, guardate c'è un attraversamento, non stanno rispettando l'attraversamento, ci hanno risposto non possiamo fare niente, tantissime volte. Sì, ma perché sappiamo che è un'altra pratica condivisa. Ma io vorrei fare una domanda, ma sulla bicicletta si va sulle scale mobili, perché c'è Leonardo Manera? No, però ci sono tanti che portano la bicicletta in metropolitana. A Bologna non c'è, però. Non abbiamo la metropolitana, abbiamo una città che in 15 minuti in bicicletta si attraversa da capo a capo. Però la buona notizia che ci ha dato è che c'è il 40% di biclette in più rispetto a qualche anno fa. A Bologna infatti è una città tradizionalmente dove la bicicletta è molto diffusa, si sa. Sono state fatte delle politiche di incentivo molto forti negli ultimi anni. Adesso il sindaco al secondo mandato evidentemente ha paura di aver fatto troppo. Ma è vero che c'è anche la tangenziale per le biciclette, l'ho letta così. Sì, è una pista ciclabile che circonda il centro storico lungo i viali di circonvallazione. Nel mezzo c'è anche una pista ciclabile che ha veramente cambiato le abitudini di mobilità, perché è una via più veloce. La speranza dovrebbe essere che tutti i soldi che sono stati fatti con le multe fatte contromano e sotto i portici vengano utilizzati per creare delle infrastrutture ad hoc. così dovrebbe essere per legge. Non sono state fatte tante multe, è un provvedimento simbolico. Fra una settimana si parlerà d'altro, i ciclisti continueranno ad andare sotto i portici. Però ricordiamolo che questo è per legge, cioè i comuni sono tenuti a investire non so quale percentuale, ma credo almeno il 30% delle multe in sicurezza stradale, quindi in progetti anche. Certo. Poi, e di pari passo sono aumentate anche i furti di biciclette, come capita qui a Milano. A me è capitato. Sì, c'è un forte aumento dei furti. Anche su questo l'amministrazione non sta mettendo in campo delle grandi politiche. Ci sono delle rastrelliere comunali che vengono segate via come il burro ogni notte, soliti noti. E l'unico strumento veramente efficace che abbiamo trovato per combattere i ladri è una rete comunitaria che si chiama Bologna Bike Watch, dove i cittadini mandano la foto della bicicletta che gli hanno rubato e altri cittadini la ritrovano. Però Simona, seguimi un attimo, perché succedono queste cose magiche che solo la radio può regalare. Allora, ci chiama Lucia da Milano, che in realtà è la mitica, per me mitologica, Tata Lucia, è vero? Buongiorno. Sono io, la grande Tata Lucia. Avrei 500 domande per i miei figli, però Lucia non conta. Allora, perché ci ha chiamato? Dice che io vorrei abbracciare questo sindaco che parla di educazione civica, perché io insegno ancora e una delle materie sostanziali dell'educare è l'educazione civica. Questo è importantissimo, dovremmo fare nelle città, nei condomini, delle sedute di educazione civica, assolutamente, perché quella è la base. Questo è l'introduzione, quindi plauso a questo sindaco che pensa all'educazione civica. Seconda cosa importante, la gerarchia dovrebbe essere pedone, bicicletta eventualmente, auto, eccetera. Perché il pedone è il più debole, diciamo, quello è più debole. Io sono stata investita da una bicicletta sul marciapiede mentre andavo a prendere i miei nipoti all'asilo. Questo diciottenne, ventenne, non si è fermato. Io sono finita al pronto soccorso con una mano rotta. Ti ringrazio. È chiaro. E va bene. Dovrebbe fare un corso. Dovrebbe fare un corso di educazione civica sui social anche, visto che. Il discorso è questo del senso contromano. Allora, a Milano. SOS bici. Esatto. A Milano, nelle strade normali di Milano. Sì. Se io sono in macchina, mettiamo, ho una bicicletta sulla destra, allora io non ho il metro e mezzo che era stato ventilato, però cerco di spostarmi un po', chiaramente, per lasciare andare la bicicletta. Se mi arriva una bicicletta contromano, io ho dovuto fermarmi perché non ci passiamo. È il problema anche delle città un po' strette. Tata Lucia, ringraziamo tantissimo di questa telefonata da ascoltatrice, ma soprattutto tutti la conoscono, SOS Tata, come Simona Larghetti. Dobbiamo andare in ritardissimo a sentire la borsa, state con noi. I funamboli. Allora, siamo qui alle 10:42 minuti in diretta. Oh, perché... ma come sei preciso? 10:42 perché... minuti. È perché sta facendo il countdown, è venerdì, è quello ma lì, perché capito? Perché fa radio, non vorrei fare Daniele Biacchessi, che entra sono le 10:42 minuti e 28 secondi qui a Radio 24. 29, 30, 31. Esatto, 32, 33, possiamo andare avanti così fino alla fine. Fa molto diretta radio, vabbè, che vi devo dire. Allora, qui è il momento di chiamare in causa i nostri furbi. Defurbizziamoci. Eccola qua. Io non avevo fatto questa sospensione per sentire questo orrore di sigla. Non è vero, lo cerchi. Cioè, ormai c'è quel gusto un po' masochista, capito? Però c'è Oreste che ci ha scritto. Buongiorno Oreste. Oh, Oreste. Buongiorno. Che ha combinato Oreste nella sua vita? Avete letto, credo, il messaggio. Sì, però gli ascoltatori no. Lo spiego. Ero alla vigilia di Natale al supermercato e arrivo al banco del fresco e prendo il cartellino del codometro, che ho scoperto si chiama così, e vedo il numero 85. Insomma, erano il numero 30, avevo più di 50 numeri davanti a me e non mi passava più. Quindi lei ha rinunciato a prendere il pesce? No, certo. Sì, stavo detto, ma iniziamo a fare la spesa, vediamo qualcos'altro. Poi ho visto che vicino c'era il banco del fornaio e che era il numero 30, una roba del genere. Ho detto, ma che fortuna se avessi quel numeretto lì. Allora mi si è accesa una lampadina, sì. Sono andato al banco del fornaio, mi sono impadronito di un talloncino che era il numero 34, quindi sì. Passato da poco. Sono andato al banco del fresco e ho detto, sono io il 34. Ho capito, ma il 34... Il legittimo proprietario del 34? Non c'era, è andata... Ho detto, proviamo, se alle gambe... Uno è pronto, poi dice, ce ne saranno due, ma avete sbagliato voi, adesso ve la volete prendere con me. Esatto, certo. Questo è il punto, Oreste, era pronto a litigare con il vero proprietario del 34. Sempre essere pronti a litigare. Sì, alla vigilia di Natale si è pronti a tutto. Ma come? Uno dovrebbe essere più buono alla vigilia di Natale. A scanso di qualsiasi ipocrisia, alla vigilia di Natale facendo la spesa per il pesce si è pronti a qualsiasi cosa. Esatto, ma poi insomma il supermercato io lo ritengo una palestra involontaria di vita, perché si vedono e si imparano un sacco di cose. Mors tua vita mea. Oreste, che secondo me dalla parlata sembra di Milano da queste parti. Ha detto una frase stupenda in italiano, che in milanese è se la va la gai gamp. Cioè io ci provo, se va vuol dire che ha le gambe, cioè ha provato ed è andata bene. Però devo dire pentito no, lo rifarei. E qui nasce veramente il primo dubbio profondo per noi giudici della defurbizzazione. Possiamo per il primo caso sospendere per questa missione. L'ha rifatto effettivamente in altre occasioni, cose simili, o è stato l'unico episodio? Ma no, però io sono abbastanza lineare nei miei comportamenti, però ogni tanto dei guizzi così. Oreste, allora cosa facciamo, Oreste? Mettiamola i voti. Che oramai è bruciato, non lo posso fare più, per cui vabbè allora per me è sì. Figuriamoci, io direi che in riferimento allo specifico episodio riferito direi sì anche per me. Sono due sì, tu Veronica. Basta, allora io, tu vali doppio. Così andiamo alla parità. Io ero già pronta a votare no. No. Allora, facciamo una votazione là un attimo. Allora, chi è per il sì alzi la mano di là del vetro. Lorenzo Nespo e Elisa Pancaldi sono per il sì. Vabbè, anche Paolo Corleone. Volete la mitragliata. Valentina Ternullo. Vabbè, insomma, sono tutti per il sì. Oreste, io ero l'unica che voleva lasciarla sulla strada della perdizione. Pace. Invece Oreste ha diritto alla patente di defurbizzato. Ci manderà del pesce, Oreste. Mi dispiace tanto, Oreste. Io non volevo. Io le volevo lasciare la possibilità di rubare un altro bigliettino e accorciare la fila. Vabbè, poi ce lo viene a raccontare. Oreste, le mandiamo un abbraccio. Dobbiamo mandare le informazioni sul traffico. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta i funamboli. Milan, a proposito del tuo Milan per i suoi traguardi. Un altro felice già perché vinceremo a mani basse l'Europa League. Senti qua ancora. Salve ragazzi, sono Dima e mi trovo al chilometro 171 in A16 e qui WhatsApp va una bomba. Dopo aver sentito la storia di Licata ci preoccupiamo ancora dell'Isis, ma noi ce l'abbiamo in casa l'Isis. Assorbenti Bellugi, dove si ordinano? Leonardo, gli assorbenti Bellugi. Anche per chi non è appassionato di calcio, ricordiamo che Bellugi è stato un grande stopper, quindi un difensore italiano che giocava nel Bologna, se non sbaglio. Quindi io mi ero persa un finissimo doppio senso questa pubblicità. Un arcigno difensore, non passava nulla, ti dico questo, non passava nulla. Quindi questa era una pubblicità per donne che hanno capito in buona parte gli uomini. Esatto, è trasversale, diciamo. È sempre questo gusto così. Comunque, un po'. Dove si comprano gli assorbenti Bellugi? Nelle migliori parafarmacie. No, non è vero, signora. Adesso, signora, lei vada in parafarmacia e chieda gli assorbenti Bellugi. No, mandata da Leonardo Manera. È molto bella la parafarmacia, mi piace molto come concetto. Infatti, io le donne con cui ho convissuto anche, ma con le quali non ero sposato, le chiamavo le mie paramogli. Simile alla moglie, ma non completamente uguale. Però, diciamo. Leonardo, adesso spostati perché è arrivato a trovarci e a ritrovarci il grande Battista da Cavaillon Veronese. Buongiorno, saluto tutti, anche la signora tanto gentile, tanto onesta, pare, e anche il signor Mina, no? Mina, Alves. Milan, ancora, mia. Rassegnati. Ma perché noi abbiamo vinto il referendum sull'autonomia, capisci, Mina? Sì. Anche Zentiri, no? Adesso comincia la battaglia vera, quella per ottenere dallo Stato centralista le nostre richieste. E io voglio far parte del comitato che andrà a Roma per esporre richieste anche, no, del nostro. Per autonomia veneta, no? Sì. E il primo problema da risolvere è quello dei zingari, no? Che è un problema ai semafori. Allora, non potendo mandare via i zingari dai semafori, che altrimenti i comunisti come Argentini si lamenta, proponiamo di eliminare i semafori, soluzione già adottata anche in tante città come quella a Napoli, no? Dove il rosso a Napoli ha la stessa importanza che ha il congiuntivo per la Poelcan, capisci? Questa dei semafori è una buona idea, Battista. Ma perché no? È inutile mantenere, non si può mandare via, togliamo i semafori e mettiamo a posto. Così, no? Prendiamo esempio dalle città che hanno adottato soluzioni anche prima di noi, no? Secondo punto anche che vogliamo portare all'attenzione dello Stato centralista è il problema delle prostitute sulle strade, no? E che anche bisogna fare una legge che è obbligata a parlare italiano, perché altrimenti non capisci quello che dicono, quanto chiedono, perché non si possono eliminare il problema prostituzione, non si può eliminare, no? Meglio gestirlo. No, gestiamolo, sì. E diciamo che è obbligata a parlare italiano, così anche chi, diciamo, parla con loro capisce quello che stanno dicendo, no? E poi il problema dei slavi, e i slavi è anche un altro dei problemi. Allora, chi? E i slavi, è uno dei problemi. E i slavi? Che suonano sui mezzi pubblici, ma suonano solo canzoni slave, balcaniche e trascura le canzoni della tradizione italiana. Allora, noi diamo elenco delle canzoni che possono essere eseguite sui mezzi pubblici dai slavi. Al primo posto, Bandiera Gialla, quella di Gianni Pettinati. Al secondo posto, Teorema da Marco Ferradini. Al terzo posto, 100-100 de Ok, il prezzo è giusto. Sì. Ma non è una canzone quella. Al quarto posto, Furia Cavallo del West. Teorema. E poi in tutto elenco mettiamo anche una canzone in quota extracomunitari, una canzone a scelta di Gigi D'Alessio. Allora, perché quota extracomunitari, sì. Ma perché per noi dal Veneto e anche la Campania c'è un altro regione, non capisci? Certo. No, noi adesso siamo autonomi. Sì. Perché noi siamo cittadini onesti e sappiamo che finché ci sono questi partiti non può cambiare niente, capisci, Gentile, Mina? I partiti pensano solo a mangiare, si capisce anche dal nome. PD non vuol dire Partito Democratico, vuol dire pasta asciutta al dente. FI non è Forza Italia, vuol dire frittata e insalatina, capisci, pensano solo a mangiare. E i politici non è all'altezza di governare. Guarda il ministro degli esteri, Angelino Alfano, è uno che prima era il delfino del Berlusconi e adesso vuol governare l'Italia. Ma se sei delfino non puoi governare l'Italia, va a fare attrazione a Gardaland se sei delfino, capisci, Alfano? Mina, Alfano, poi bisogna anche essere in grado di trattare con i capi di Stato dei paesi stranieri, che è dei falchi. Guarda, ti dico tre nomi: Trump, quello che vuoi, sì, quello degli Stati Uniti, poi Kim Jong-un, quello della Corea, e il Putin, quello della Russia. Kim Jong-un. Adesso Kim ti chiedo: ce n'è uno tra questi tre che ti piacerebbe avere come amministratore del condominio? Kim Jong-un. Io dico di no. Il Trump non va bene perché ti riempie di muri giardino condominiale. Kim Jong-un non va bene perché se c'è discussione in assemblea ti tira addosso un missile. E anche uno che spara missile come niente. Putin non va bene perché se non sei d'accordo con lui ti avvelena col polonio. Unico che un po' mi piace è quello della Catalogna, come si chiama, il Puigdemont. È il marito di Crudelia Demont, che prima ha messo in piedi tutta l'ambaradam per l'indipendenza della Catalogna, poi quando ha visto aria che tira si è rifugiato dove? A Bruxelles. È in Belgio. Che può sembrare comodo, ma guarda che rimanere in Belgio è peggio che andare in carcere. In Belgio piove sempre. E poi se ti vuoi sposare dove vai? Se ti vuoi spostare dal Belgio dove vai? Vai in Lussemburgo, che è ancora più triste. Perciò il Puigdemont ha fatto un atto di coraggio andare in Belgio e lo aspettiamo qui in Veneto. Parola di Battista da Cavaillon Veronese. Puigdemont in Veneto. Siamo regione indipendente adesso, non ci facciamo più condizionare da quei centralisti come a Gentile onesta pare anche Almino qui che dice. No, io non sono centralista. Però c'è Erminia da Palermo che li dà un po'. Erminia, vogliamo concludere con lei la trasmissione? Buongiorno. Buongiorno, un piacere parlare con voi. E in realtà era il mio intervento riferito alla questione delle biciclette, non so se sono ancora in tema. Come no? Allora, io qualche anno fa, quando ancora Palermo non era una città diciamo ciclosostenibile come è adesso, perché sono state realizzate tante piste ciclabili, ho preso una doppia multa per essere andata contromano. Invece. Quindi una prima multa, poi diciamo ho nuovamente disubbidito, mi hanno ribeccato, mi hanno ripreso la multa. Però volevo dire, attenzione che questa politica delle multe non si traduca poi, cioè non sia solamente fine a se stesso, a una politica delle multe secondo me deve corrispondere una diciamo disponibilità a dare servizi. Ma l'abbiamo detto, in teoria parte delle multe vanno investite in questo. Poi un'altra volta andavo in bicicletta con il cellulare e poi sono caduta e mi sono rotta il braccio. Quindi ma ci deve, quindi pulita da sola, questa multa, però era più una telefonata multa di defurbizzazione, io glielo dico Erminia. Perché... Quindi adesso il cellulare lo usa solo in macchina mentre guida? No. Evitiamo di dare cattivi messaggi dopo averlo fatto per già 2 ore. Dai, alle 10.55 dobbiamo fermarci perché Funamboli finisce qui. Ringraziamo perché Funamboli tutti. Va a farsi il weekend. Pensavo va a farsi fottere. No, a lunedì. Questa non a lunedì.